In fondo, la segretaria di Marani ha coscienza di tutto questo. È questo che la infastidisce, che la mette in difesa. Pagherai, maledetta scimmia. Al tavolo arrivò la Medri, salvando me e la scimmia dall'imbarazzo totale. Le due iniziarono a cinguettare con aneddoti lavorativi. Io rimasi all'angolo, battuto. Non potevo competere. Avevano logiche e rivendicazioni. Qualcuno aveva fatto errori che loro avrebbero dovuto risolvere. Tutti gli altri enti nemici hanno richieste assurde. Anche loro, in fondo, erano sole, ma difendevano il mondo dalle forze del male e dell'inefficienza. Ogni giorno, con successo. Nel pomeriggio fui colto da due capogiri, che non erano nemmeno le 14. Sbalzi di pressione, tachicardia. Alle 13.30 ero partito come al solito di buona lena e, verso la fine della mattinata, mi ero portato in leggero vantaggio sul rifornimento. Ma nel fuoco centrale, la Ghedini aveva inserito le operaie più indemoniate. Forse non avevano mai lavorato così veloci, riuscivano a dire le solite idiozie con la convinzione maggiore del solito. Disquisivano per lo più di ricette culinarie, ma le mani andavano per conto loro, rapidissime. Portavo a termine il mio giro completo di prelievo dal supermarket e di alimentazione. In un tempo quasi identico al loro ciclo di assemblaggio, non mi rimaneva più il tempo di rompere le scatole vuote e riempire i vasetti con la minuteria. In poche decine di minuti, oltre a bruciarmi il vantaggio iniziale, mi stavano mettendo sotto, giro dopo giro, rosicchiandomi secondi. Chiesi il cambio pisciata e decisi di non tornare in linea. Telefonai dall'apparecchio a bordo linea alla Ghedini. Tremavo di rabbia, la voce era incerta, panico puro. Sapevo che stavo prendendo una decisione irrevocabile che avrebbe scavato un solco grande tra me e la mia azienda. Stavo aprendo una ferita impossibile da rimarginare. Non torno. Dove? In linea. Nessun problema. La risposta all'altro capo del filo mi spiazzò. Eppure dovevo aspettarmela in questi termini. Ogni giorno arrivano certificati medici. Molti abbandonano il posto di lavoro senza alcun senso di colpa e tornano il giorno seguente con un certificato medico. Poi ci sono certificati eterni che servono a esentare alcuni operai dalle mansioni più dure o dalle ore supplementari. La Ghedini non era misericordiosa e la sua risposta era l'unica che poteva darmi. Non poteva essere punitiva. Mi resi conto di essere un operaio come gli altri, dentro al contratto nazionale dei lavoratori. E la constatazione non mi piacque affatto, anche se voi forse non riuscite a capirmi. State pensando che avrei dovuto sentirmi sollevato. State pensando che questa è una delle migliori fabbriche in cui sarei potuto finire. Non stai bene? Loro non stanno bene, sono delle deficienti. Non c'è bisogno di ammazzarsi andando così forte. Siamo in piena recessione. Il mercato dell'auto è finito, caput. Di loro di rallentare. Sì che c'è bisogno. Se vuoi ti faccio vedere le richieste per oggi. Ci chiedono i numeri alti. Tra poche settimane inizieremo la cassa integrazione straordinaria. Lo sai, vero? Bene, così ci riposeremo, ma non c'è problema. Domani porti la carta del dottore. Armeggiai senza lucidità nello zaino. La Ghedini era scesa dall'ufficio. Mi guardava mentre perdevo di vista cellulare, chiavi di casa, chiavi della macchina. Mi battei i polsi su tutte le tasche come un matto. I pantaloni che abbiamo in dotazione... Sì, l'azienda ci fornisce anche un abbigliamento di buona qualità. Hanno in pratica 5 tasche, di cui una con cerniera, e io le esploravo senza sensibilità nelle dita. Avevo problemi di circolazione e l'intestino in eruzione. Aprii per un attimo l'armadietto del Frank. La sacca stava davvero lì. Calmati, non c'è problema. Sì che c'è un problema, siete delle maledette. Altre due operaie stavano seguendo la scena. Io tremavo sempre di più. Rabbia, esaurimento nervoso, abbassamento dei livelli di testosterone, crisi di astinenza da eroina. Avevo la bocca rigida come quella di una carpa all'amo. Cercavo di parlare il meno possibile perché sbavavo. Le labbra si erano fatte cartilagini. Piantala di fare la vittima. Sei fortunato, siamo fortunati. Non stiamo così male qui dentro, non ci possiamo lamentare. Fanculo. Se continui così finisci allo stampaggio, a fare i turni con quelli strani come te. Raccolsi tutte le mie cose. Mi avviavo sghembo verso l'uscita dello stabilimento. Volevo passare inosservato, volevo essere invisibile. Invece alcuni operai chiesero conto di cose che non capivo. Non capivo le loro domande, ero chiuso in me stesso. Sembrava parlassero una lingua sconosciuta. Vedevo i loro occhi alzarsi al mio passaggio e la loro bocca deformarsi. Di colpo, la natura subumana degli esseri che popolavano questo luogo si evidenziò senza inganni. Anche se i sintomi dell'astinenza d'eroina forse stavano facendo la loro parte. Grugnii rabbioso. Dovevano farsi cazzi propri, attività in cui non avevano mai brillato. Uscito dall'ultima porta mi bloccai con il badge in mano davanti al tornello. Non ero mai stato da solo in quella situazione. Mi sembrò un altro luogo, forestiero e minaccioso. Sia in entrata che in uscita si formano piccole code di operai starnazzanti o in silenzio da depressione. Non ero mai stato in intimità con il tornello. Non ero mai uscito prima. Avevo sempre rigato dritto, nel gregge. Sono sempre stato un buon soldato, io. Fuori dalla cancellata all'ora pomeridiana metteva tutto in stallo. Nessun passaggio d'auto sulla strada, nessuna traccia di vita. Mi sembrava di essere in un quadro di De Chirico. Lo spazio atterrisce, svuotato dall'umano. Tutti erano chiusi nei capannoni della zona industriale. Non esiste disoccupazione nella cittadella. E io non sapevo che farmene di silenzio e libertà. Mi resi conto di essere vecchio e ormai inadatto a ogni cambiamento. 23 anni di fabbrica avrebbero piegato chiunque. Il cielo mandò un avvertimento. Un'ombra livida lo oscurò dalla parte nord, verso la zona valliva. Cominciò a scendere una pioggia pesante, resa obliqua da un vento gelido. Le macchine nel parcheggio sembravano enormi insetti metallici disattivati. In giro solo extracomunitari e balordi, studenti che credevano ancora nel futuro, professionisti con la faccia come il culo e buone competenze. Io non sono furbo e non so fare un cazzo. Non sono attrezzato alla sopravvivenza. Mi si aprì una voragine alla bocca dello stomaco e mi fu chiara una cosa. Se fossi uscito in quel momento, se avessi oltrepassato la recinzione, se avessi lasciato il parcheggio aziendale in un orario così bizzarro e fuori da ogni regola, una scarica di arroica mi avrebbe invaso le mutande. Feci dietro front. Meglio tornare indietro, meglio lavorare a ritmi altissimi, meglio bestemmiare e tirare cazzotti a oggetti inanimati, meglio avere contatti umani generici e conflittuali. E tu che fai? Torno al mio posto. Vai a casa e riposati, ne hai bisogno. Ho guardato i numeri. Effettivamente dalle 13:30 alle 14 sono andate forte. Hanno fatto il loro dovere. Hanno fatto la cosa giusta. Che altro possono fare? Ora vado. Dove? Ti ho già fatto il permesso e ho mandato la mail all'ufficio personale. Torno a rifornire la linea. Ti ho già sostituito. Ho fatto uscire una ragazza dalla linea. Vado al mio posto. Quello è il mio posto. È mio. La ragazza torna dentro. Non ti voglio più vedere per un po'. Fatti dare almeno una settimana di mutua. Da quanti anni non fai un giorno di malattia? Non importa, Daniela, stiamo combattendo per nulla. Tra pochi mesi la vecchia strega finirà l'ultima goccia di latte. Gli estratti conto si asciugheranno. Tutto verrà trasferito in Slovenia o in un posto del genere. Questo luogo diventerà un ipermercato o un bowling e perderà la sua memoria. Le pietre torneranno pietre, nessuna pietra è matrigna. I mostri si riveleranno mulini e allora forse capirete. Io sarò l'alcolizzato del bar del bowling, darò fastidio alle cassiere, racconterò le storie antiche di questo posto, parlerò a vanvera di grafici e organigrammi, di first time quality di value stream, citerò gente morta, oppure esistita solo nella mia mente. Fermerò clienti, li chiamerò con il nome di ex colleghi, inseguirò fantasmi. Il fidanzato della cassiera fingerà collera, poi pietà. Dissuaso dalla ragazza eviterà di colpirmi. Io continuerò, petulante. Vedi, in questo punto, dai videopoker fino oltre i biliardi a stecca, qua c'era la linea di assemblaggio alla Ferrari Maserati. Facevamo i condizionatori che poi andavano montati. Ma ti piace la Ferrari? Piace anche a te, no? Piace a tutti la Ferrari. Daniela, a me le macchine basse sembrano ridicole. Non salirei mai su una Ferrari, mi sentirei una prostituta. Non lo so da quanto tempo non faccio un giorno di malattia. Mi hai preso in contropiede. Ecco, infatti, ripigliati. Io adesso devo andare. Tu sparisci, riposati qualche giorno, almeno una settimana. Hanno ragione. Chi? No, niente. Chi? Tutti. Tutti chi? Tutti quelli che dicono che sei pazzo. Chi dice che sono pazzo? Tutti. Accusai il colpo. Finsi di prendere atto della logicità del suo attacco. Finsi di accettare il consiglio. Finsi di tornare sui miei passi, ma non ripresi il corridoio verso l'uscita. Quando fui certo di essere fuori dalla visuale della Ghedini, feci gli scalini di corsa verso gli uffici fantasma del primo piano. Conoscevo un ripostiglio dove nessuno metteva il naso da anni. Vi giacciono campionature e disegni tecnici cartacei, che sono già archeologia industriale. È un luogo angusto che utilizzavo per i miei piccoli traffici, quando lavoravo all'ufficio qualità. Mi chiusi dentro a chiave dall'interno e mi raccolsi in posizione fetale. La polvere era sopportabile. A terra sistemai gli oggetti personali. Il cutter, i guanti, telefonino, MP3 a batterie morte, una mela verde. Sarebbe stupendo vivere così. Potevo andare alle cucine e trovare altri viveri. Mi sentivo un ebreo scampato al rastrellamento. Ero l'ultimo sopravvissuto del pianeta. Ero un terrorista kamikaze in azione. Ero Dio. Mi stavo tranquillizzando. I battiti cardiaci rallentarono. Mi sentivo sicuro nel ventre nascosto della mia azienda. Una scarica di adrenalina mi riaccese. Chiudevo gli occhi e vedevo la sacca scura con la mitraglietta. Poteva essere lo scherzo terribile di un ragazzo senza pietà. Poteva non esserci nessun'arma. Avevo valutato da subito questa ipotesi, ma per ragioni che non saprei definire, la scartai. Nel secondo ripiano dello scaffale con i componenti campione c'era una scatola quadrata che riconobbi. Dentro riposava il motorino ventilante di un fornitore scartato per ragioni di mafia aziendale. In un angolo della scatola, eccolo lì, inviolato. Ecco la stagnola. Il grammo di pakistana dimenticato e una siringa. Mi potevo anche concedere l'endovenosa. Dio esiste. La vita è una favola che sa stupire. L'eroina non ha data di scadenza. L'amaro in gola arrivò a puntuale. In pochi minuti passai a un sonno soffice. Mi risvegliai alle 8 di sera. Tutto il building 2 era finalmente deserto. Dal finestrone che dava sull'acquario delle linee di assemblaggio, la vista toglieva il fiato. Era un panorama finalmente incontaminato, privo della materia umana. Il buio non era totale. Le spie nella zona degli interruttori punteggiavano l'oscurità. Tutto era riconoscibile, rivestito di un alone che veniva da un'altra dimensione. Ero in una situazione di torpore cosmico che mi svuotava di ogni cattiveria. Potevo scendere di sotto e prendere a mazzate il nucleo dell'intelligenza meccanica delle linee produttive. Questo avrei dovuto fare. Questo volevo fare da almeno 4 anni. Sarebbe bastato danneggiare le centraline di collaudo per creare un maremoto di entità solo in parte prevedibile. Produzione dei climatizzatori bloccata. Linee ferme presso i clienti Alfa Romeo e Ferrari Maserati. All'Alfa di Pomigliano le auto sarebbero comunque uscite dalla catena di assemblaggio incomplete della parte da noi fornita. Migliaia di scatole di metallo parcheggiate in enormi piazzali, ritardi sulle consegne ai concessionari, filiera di denaro interrotta. Una fortuna inaspettata. Gli ordini sono colati a picco negli ultimi mesi. Nessun incentivo statale potrà salvare il mercato in collasso, ma nessuno lo ammetterebbe. Telefonate febbrili tra tecnici e dirigenti. Sanzioni pecuniarie previste dal contratto che piegherebbero a morte la nostra azienda. Carabinieri in perlustrazione nei nostri capannoni. Indagini, scarsa competenza tecnica degli inquirenti, domande idiote, fuori luogo, poi sempre più a fuoco. Le deposizioni frastornate, l'incredulità, la paura per il futuro che accomuna schiavi di linea e alti porporati. Forse la farei franca, forse no. Qualche videocamera forse mi stava già inquadrando. Immaginai l'odio dell'intera comunità della cittadella nei miei confronti. Avrebbero tentato di linciarmi all'esterno della nuova caserma dei carabinieri dopo la confessione. La mia azienda, tra sede centrale indotto di piccoli cantinari, elargisce circa 400 buste paga. Le mie giustificazioni filosofiche. Il redattore del giornale incapace di tradurne la complessità. Le interviste ai miei colleghi. Era un tipo tranquillo, lavoratore. Maledetti idioti. Fuori da una fiction non riconoscerebbero un assassino nemmeno mentre gli taglia la gola. Hanno sempre bisogno di filtri, di una mediazione tecnologica. Solo allora riconoscono la vita. Ma cosa avrei dovuto fare? Distruggere le attrezzature nella notte? O aspettare le 12:47 e falciare gli esseri viventi che infestano questo posto? Gli uomini passano. Tutti sono sostituibili. Le macchine e gli standard work resistono. Al massimo possono essere trasferiti in Serbia, dove un operaio massa costa molto meno e il governo regala enormi sgravi fiscali. Hanno solo bisogno di manutenzione e revisioni. Avessi imparato a guidare il muletto, ora potrei usarlo contro i totem giù di sotto. Spaccare tutto tenendo le pale alte, come le zanne di un moderno mammut impazzito. Forse solo il fuoco potrebbe purificare questo luogo. Saprei anche dove trovare le taniche di benzina. Un falò immenso, visibile, fino dalla città. Ma stasera tutto è bontà. Mi sono fatto un altro schizzo in vena. L'eroina pakistana fa il suo dovere, sale con una botta leggera e si assesta. Il mio umore è ottimo, sono in pace con l'universo. Gli omuncoli che lavorano in questo posto devono essere riconoscenti alla pakistana, dea di cui ignorano l'esistenza. Le strutture della linea rimarranno integre. Le macchine non sono cattive. Adesso sono accucciate, in attesa che una crisi economica definitiva o una recessione mortale le renda inutili. Non sono demoni. Sono fantasmi buoni, non mettono paura. Il passato non esiste. Esiste solo lo stato d'animo presente. Che ne è stasera di tutto il mio odio messo a macerare per anni? Potrei accanirmi, potrei entrare negli uffici, sfondare porte, distruggere PC, dare fuoco al cartaceo, resettare la memoria storica di clienti e fornitori. E credetemi, sarebbe un atto d'amore estremo, eutanasia industriale. Non voglio vedere questo posto in lenta agonia, non voglio ascoltare muto i bollettini di guerra, non voglio morire di dissenteria in trincea senza l'onore di una pallottola. I periodi di cassa integrazione saranno sempre più lunghi. Linee di produzione attive e spente a macchia di leopardo. Migrazione a rotazione delle greggi verso linee e reparti attivi, seppur rallentati. Inaridimento progressivo delle pozze di mercato. Mancato rinnovo dei contratti a termine, assemblee sindacali straordinarie messe in mobilità, volantini formali e definitivi affissi in bacheca, i commenti dei condannati inevitabili e prevedibili, lo sguardo scuro dei porporati usciti da estenuanti unità di crisi, organismo che si abbandona alle infezioni, fantoccio, senza sistema nervoso. Non ho distrutto nessuna attrezzatura, nessun sabotaggio. Tutti i PC in azienda saranno integri e funzionanti. Solo verso le 5 di mattina ho forzato la serratura dell'ufficio di Marani e ho aperto i cassetti con un cacciavite. Decine di roditori sono usciti. Ho sentito le loro zampette al collo del piede che cercavano di risalire lungo le caviglie. Poi, abbagliato dai neon ospedalieri, mi sono girato a guardare quelle macchie scure mobili nel candore dei pavimenti bianchi. Un incubo travestito da performance di teatro d'avanguardia. Ma quando chiudo gli occhi, qualche centesimo di secondo prima del buio, eccola lì, al centro del mio cervello, seducente, irresistibile, l'immagine di una borsa di cuoio scura. No, Frank, non ti deluderò.